A se hano ha bo hloko le fu a lu tswa moyeng le tsiu ya lona a tswela tshokonyana a wa ka ba mo le patse a rapela di khororo tsa hae e ne ka di popitsa madi tate ha o no ho ya ka nna senwelo sena se ne se tla feta ho le nna e pa thato ha e feta hale ya mangolo e ileng ya bolelwa tate ba tshwarele hobane ha ba tsebise o ba se etsa.